Report del 25 novembre all'isola pedonale del Pigneto. È stata una bella giornata. Abbiamo raccontato alle donne, alle compagne, alle femministe, alle lesbiche che erano con noi in piazza quello che abbiamo fatto in questi mesi di analisi, le conclusioni a cui siamo arrivate, le domande che ci siamo fatte, la voglia di allargare il più possibile il dibattito e il confronto. Abbiamo parlato e proposto alla discussione che cosa significa la parola donna, che cosa intendiamo per violenza maschile, la valenza che hanno i ruoli vecchi e nuovi nell'oppressione sulle donne, l'essenza dell'emancipazione, quello che è e quello che dovrebbe essere, la dinamica della violenza maschile nella coppia, l'intreccio tra violenza maschile sulle donne e società neoliberista. È stato distribuito l'opuscolo contro la violenza maschile sulle donne, che abbiamo autoprodotto e che speriamo sia un contributo alla riflessione. Ne avevamo stampate 500 copie e sono finite tutte. Ed è stato diffuso anche il materiale delle compagne spagnole e la denuncia della violenza su Adama e le donne rinchiuse nei CIE, che è una delle molteplici espressioni della violenza che questo sistema patriarcale neoliberista esercita sulle donne. Ci rivedremo in molti luoghi in questi 16 giorni di mobilitazione per distribuire l'opuscolo e provocare dibattito davanti alle scuole, nei luoghi di lavoro, all'università. Coordinamento femminista e lesbica di collettivi e singole, Roma. Il nostro indirizzo mail è coordinamenta@autistica.org. Insomma, è stato un successo.